la prossima canzone è un po' lunga, no? Un pochito lunga, no? Ah, la scena. Thank you. al suelo y se me lo olvido.